Cari cristiani, io personalmente ho una grande gioia nel celebrare, nel cantare questa Santa Messa di Natale, perché posso dire mi mancava. Mi manca il canto, è una liturgia ricchissima. Vorrei oggi suggerirvi uno spunto, uno solo, di riflessione che spero possiate portare a casa. Ma prima di arrivarci voglio fare come un passo, un passettino, un piccolo gradino. Tutti noi è mesi che sentiamo parlare di Natale, attenzione, non di Gesù, ma di Natale sentiamo parlare da tempo, sentiamo parlare perché ci sono promozioni di tutti i tipi, perché ci dicono che se vogliamo un Natale felice devi affidarti al tal prodotto. Siamo dentro sotterrati da valanghe di pubblicità. In più ci si è messo anche il Covid tra il prima di Natale e il dopo Natale, per cui saranno delle regole in un certo modo prima, in un certo modo dopo. A proposito del Covid, io vorrei suggerirvi uno spunto, amici. Mi pare, ormai è 2 anni quasi, che la gente oggi preghi molto di meno contro questa pandemia. Io ricordo il primo anno, vedevo dei preti che giravano su dei motocarri con l'ostensorio in mano, vedevo su YouTube dei preti che celebravano messa sulle terrazze delle... Oggi mi sembra che non si preghi più per questo. Perché? Ma perché siamo delusi tutti, no? Qualcuno dice ma anche il Signore non ci ha ascoltato, anche il Papa ha fatto quella preghiera toccantissima in una piazza San Pietro deserta. Abbiamo fatto rosari da Pompei, da Padre Pio, non è passata. Amici, io credo che dobbiamo ancora pregare, forse cambiando, a mio parere, cambiando obiettivo. Perché come questa pandemia non viene da Dio, guai chi dice questo è un castigo di Dio, Dio non fa le opere d'arte, l'umanità, per poi distruggerle. È un altro che eventualmente fa questo lavoro. Questa pandemia non viene da Dio e io modestamente penso che non sarà Dio a farla passare. Allora perché pregare? Pregare ugualmente Dio perché mandi lo Spirito Santo sugli scienziati, sui politici, sugli amministratori, sugli economi, su tutta la gente della sanità, illumini lui, ispiri lui e poi sarà l'uomo che è mosso da Dio e mosso dalla genialità che è sempre dono di Dio. Aiuterà l'umanità a venirne fuori. Ma amici, dobbiamo pregare perché l'umanità sia illuminata dal genio che viene da Dio e sia illuminata dalla sapienza che viene da Dio. Poi un altro piccolo gradino che vorrei fare. Qualcuno sento che dice ma dov'è Gesù? Gesù non c'è più, si parla, l'ho detto anch'io, e tuttavia io non mi scaglio contro il mondo che l'uomo il modo con cui l'uomo d'oggi affronta il Natale, anche se in maniera laica, anche se in maniera laicista, perché comunque in certo modo si sottolinea ancora il 25 dicembre, mica per caso il 14 novembre o il 12 febbraio, perché comunque Cristo è presente anche se in maniera così nascosta dentro nel mondo. Esattamente come noi contiamo che siamo nel 2021 dopo Cristo. Non in tutto il mondo si festeggia il Natale. Io ho sentito una persona che è vissuta nella ex Jugoslavia che mi diceva: Don, ma noi a Natale si andava a lavorare in fabbrica, non perché oggi si lavora in ospedale, è giusto, ma si andava a lavorare in fabbrica perché il regime comunista negava questa realtà. Oggi ancora qualche scriteriato in Europa ha tentato di dire di abolire anche il nome del Natale, gli hanno fatto le pernacchie, ha dovuto tornare indietro. E dunque, sebbene non sia questo il mio Natale, però sono contento che Gesù in qualche modo sia il punto di riferimento anche quando l'uomo vuol fare festa. E poi quanti valori ancora legati comunque a questo Natale. Gente che cerca in tutti i modi, pur con le restrizioni, di trovarsi a casa, perché c'è una festa di famiglia. Gente che pure con tutte le fatiche però apre l'attenzione sui poveri, perché hanno sotto gli occhi Gesù, povero nella capanna di Betlemme. A te che sei del mondo il creatore, mancano panni e fuoco, o mio Signore. E allora cerchiamo, amici, io accetto anche questo Natale, il Natale del mondo, però se guardo la liturgia della Chiesa, che è ricchissima, il mio cuore sobbalza, perché ho sentito: è venuto nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo, tanti non l'hanno accolto, a quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non sono stati generati dalla terrestrità, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Amici, io ho meditato molto su questa parola, figli di Dio, e vorrei condividere qualche briciola della mia preghiera, della mia riflessione. Guardate che abbiamo bisogno di fermarci a masticare questa parola: siamo figli di Dio, abbiamo Dio come padre. Il mondo purtroppo che festeggia così, però non ha scoperto Dio come padre, e allora il mondo è orfano, amici. Il mondo è orfano e la gente è orfana perché ha creduto che l'amore ti generasse, ma poi colei che tu ami muore. Ha creduto di essere lui padre, madre, generare dei figli, ma i figli vanno per la loro strada. E io quante delusioni sento da parte di tantissime mamme, anche di papà, ma di mamme, dei loro figli. Hai creduto che il lavoro fosse per te una... e il lavoro ti pianta in asso. Hai creduto che la salute... e non riesci a venirne fuori. E possiamo moltiplicare gli esempi, amici. Hai creduto che la natura fosse per te un rifugio e ti tocca andare con la mascherina anche in giro in mezzo alla natura. Amici, tutto passa, Dio solo resta, e beati coloro che hanno un padre nei cieli e che ricevono da questo padre il Figlio di Dio, che ci dice: segui il mio Vangelo. Da oggi comincia l'avventura di tutto l'anno, amici. Domenica dopo domenica sentiremo il Vangelo di Gesù e ci sarà data la possibilità, dipende da voi, dipende con quale stile vi chinerete sulla parola «sono figlio di Dio», dipende da voi diventare figli nel Figlio.